Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci ascoltate di mattina presto, buona serata, buona conclusione di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45, subito la mail, un abuso al giorno, @radio24.it, vi ricordo anche il mio blog, lo trovate sull'home page del Sole 24 ore, si chiama Guardie o Ladri, oppure andate su robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Chi segue le mie inchieste sul Sole 24 ore, il blog appunto, sa che ultimamente ho dedicato moltissime inchieste alla vicenda Why Not, lo ricorderete, quella inchiesta avvocata poi al PM Luigi De Magistris, è giunta comunque con 106 informazioni di garanzia, conclusione, e adesso vedremo che fine faranno queste 106 informazioni di garanzia spedite a personaggi illustri, tra i quali il governatore della regione Calabria, Agazio Loiero. Ma Why Not non vuol dire soltanto inchiesta della magistratura, ma vuol dire anche una società che fino a qualche anno fa, fino a qualche mese fa possiamo dire, lavorava a stretto e diretto contatto con la Regione Calabria e con gli enti pubblici. Questa società aveva centinaia di lavoratori alle proprie dipendenze, poi le peripezie, le disavventure giudiziarie hanno messo un po' tutto a rischio. Allora, noi oggi in questa puntata parliamo proprio di abusi ai quali purtroppo oggi sono sottoposti ancora alcuni lavoratori precari che vivono e operano, cercano di sopravvivere nella regione Calabria. Ne parliamo perché? Perché sotto Natale sono successe cose abbastanza strane che noi cercheremo di approfondire, perché si legano in qualche modo anche al filone della magistratura che sta cercando di vederci chiaro in quelli che sono tutti i risvolti di questa annosa vicenda. E per parlare di precariato, che comunque a volte assume la vera e propria forma di abuso in tutta Italia, e chi segue questa trasmissione sa che ne abbiamo parlato anche alcuni giorni fa, abbiamo chiamato in trasmissione la signora Rita Durante. Buongiorno signora Durante. Buongiorno. Allora, lei è tra i 160 lavoratori che prestavano in servizio interinale, comunque in outsourcing, lavoro per la Regione Calabria, che poi di punto in bianco si sono trovate, diciamo così, per strada. Dico bene, signora Durante? Sì, sì, noi l'11 luglio del 2008 siamo stati licenziati. Ecco, allora partiamo dall'11 luglio del 2008. Ovviamente cercate di trovare un lavoro, ma accade che sotto le festività natalizie, tra il 29 e il 30 dicembre, alcuni di voi vengono convocati presso la Regione Calabria. E ci racconti che cosa succede? Allora, noi siamo stati convocati tramite telegramma per andare a fare un colloquio presso la Regione Calabria. Siamo andati a fare questo colloquio, siamo stati colloquiati dai componenti della commissione e poi siamo andati a casa in attesa di questa chiamata per andare a lavorare. Ecco, perché ovviamente avevano fatto presente che cosa, signora Durante? Che c'erano dei progetti in cui potevate essere impiegati? Sì, sì, dei progetti in cui noi dovevamo andare a lavorare, progetti per i tributi, centro per l'impiego e assistenza sociale. Ecco, quindi lei questo colloquio l'ha fatto direttamente, non è che se l'è sognato, no? No, no, no, io ho il telegramma, ci sono le prove, ho firmato pure. Allora, lei dice, lei avrà detto ai suoi cari, bah, tutto sommato quest'anno il Natale è passato, però la buona notizia, il regalo ci è arrivato pochi giorni fa perché abbiamo avuto questo colloquio, qualche prospettiva si apre. E invece? E invece oggi arriva il telegramma e domani arriva, dopodomani invece questo telegramma non è mai arrivato. Abbiamo sentito questa puzza di bruciato e ci siamo recati presso l'assessorato al lavoro. E siamo stati praticamente ricevuti dal direttore generale Carnovale, neanche dall'assessore perché era a Roma. Ecco, il telegramma a cui lei fa riferimento, che attendeva era quello proprio della chiamata al posto di lavoro. Sì, certo, ecco. Certo, dopo il telegramma di convocazione io aspettavo il telegramma per andare a lavorare. Certo. Negli uffici dove ero stata assegnata. Però questo telegramma non arriva, andiamo noi lì all'assessorato al lavoro e siamo convocati dal direttore generale Carnovale. E cosa vi dice il direttore generale Carnovale? Ci stringe le spalle, davanti a me personalmente, ci stringe le spalle e dice: signori, mi dispiace ma rimane tutto fermo qui perché non c'è la copertura finanziaria. Ci siamo sbagliati, in buona sostanza, sì, abbiamo scherzato. Sì, la colpa è perché io poi ho detto: direttore generale, come si può dire ad una donna, madre di famiglia, con un figlio a carico, monoreddito, dire in faccia che non c'è la copertura finanziaria? Dopo che ci avete convocati, eccetera, eccetera. Sì, e sì. Con una graduatoria che mi con pare... Con una graduatoria, sì, sì, io sono al 124esimo posto. Ecco, quindi teoricamente siete circa 160 quelli che sono rimasti esclusi, perché gli altri... No, siamo più di 160, ecco. Siamo un 300, perché ecco. In graduatoria siamo 300. Però noi stiamo cercando, lo dico a lei, lo dico ai nostri radioascoltatori, stiamo cercando il dirigente generale che è anche avvocato, ci risulta Carnevale. Devo dire che oggi abbiamo ricevuto una telefonata, abbiamo fatto una telefonata abbastanza tempestosa, perché la nostra redazione è stata presa, diciamo così, a urlacci dalla segreteria del dottor Carnevale, dicendo che noi diciamo cose sbagliate. È sorprendente perché ancora non avevamo detto niente, l'avevamo chiamato a interloquire, ma vedremo se nei prossimi giorni il signor Carnevale si farà vivo. Ma come si è fatto vivo nel frattempo? Si è fatto vivo, non so se lei lo sa, signora Durante, con un avviso pubblico pubblicato appunto sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, in cui c'è un invito a stabilizzare i precari. È una manifestazione di interesse che dovrebbero manifestare i privati. Ma voi lo sapevate di questo? Sì, sì, sì, questa è la nostra manifestazione di interesse, sì, sì. Ecco, e voi come vi legate a questo avviso pubblico? C'entrate, non c'entrate, sperate, sì, sì, non sperate? Sì, è stato fatto proprio con una legge regionale, la legge 28, la legge regionale 28 del 14 agosto 2008, è la nostra manifestazione di interesse. E allora sarete assunti? Dovremmo essere assunti, ma non c'è la copertura finanziaria. Hanno fatto la legge, hanno fatto la graduatoria, siamo stati colloquiati, fatta la graduatoria e dicono che non c'è la copertura finanziaria. Ma mi scusi, signora Durante, poi lo chiederemo anche al signor Carnevale se avremo l'onore di ascoltarlo. Ma se hanno fatto un avviso pubblico, mi scusi, ma la copertura finanziaria c'è. E il paradosso è questo. Ah, il paradosso è questo, che hanno fatto l'avviso pubblico ma manca la copertura finanziaria. E mancano i soldi. Ah, fantastico. L'unica legge in Italia fatta e non senza copertura finanziaria. Bene, guardi, francamente la situazione è abbastanza sorprendente e devo dire ai radioascoltatori: fatevi voi un'idea di come vanno le cose in Italia e in particolar modo in Calabria. Ammesso e non concesso che sia così, lasciamo sempre il dubbio e diamo il, come dire, la buona fede, perché potremmo e dovremmo ancora sentire il signor Carnevale. Però io le domando, signora Durante, scusi, ma chi è che ha interesse a partecipare ad un avviso pubblico che stabilizza i precari per soli 2 mesi? Me lo vuole spiegare? Ma lei ci starebbe a farsi stabilizzare? No, per 2 mesi no. Sì, il paradosso è proprio questo, per 2 mesi. Appunto. Ecco, ma lei, scusi, nel frattempo ha rinunciato a qualche trattativa privata? Cioè... Sì, sì. Io ero stata chiamata per andare a fare il colloquio in un call center e ho dovuto rinunciare perché aspettavo questo telegramma. Ecco, allora mi scusi, facciamo così. Cerchiamo di ricapitolare in attesa, ovviamente, dell'avvocato Carnevale. Ma se l'avviso pubblico non avesse copertura finanziaria, se fosse vero che sotto Capodanno vi è stato detto ci dispiace, non ci sono i soldi, se tutto questo fosse vero, sì, a voi i danni di quello che state subendo chi ve li ripaga? A me li dovrebbe pagare la Regione Calabria. Ah. A parte mi deve pagare danni psicologici, morali, perché a me hanno fatto venire l'esaurimento nervoso. Ecco, ma che lei sappia, quante persone invece sono state in qualche modo beneficiate di una stabilizzazione nel corso di questi anni? Guardi, gli LSU, gli LPU, diciamo, sono verso la strada della stabilizzazione. Ho capito. Nei call center anche sono stati assunti adesso proprio in regione in Calabria. Mi tolga un'ultima curiosità, signora Durante, sì, ma essere stata lei dipendente della società Why Not, che appunto prestava, sì, servizi per la regione Calabria, è stato un beneficio o è stato un danno? Guardi, per me in questi 8 anni è stato un beneficio, perché voglio dire, io ho lavorato, ho tirato sulla famiglia, ho pagato un mutuo, eccetera. Però adesso mi ritrovo con le ruote a terra a 40 anni. Dove devo andare io a 40 anni? Ha perfettamente ragione, di questo spesso noi parliamo nelle nostre trasmissioni. Questa volta l'abbiamo fatta a maggior ragione perché la vicenda di lavoratori precari che stanno subendo comunque degli abusi, tutti da verificare, ripeto ancora una volta, e ci piace farlo con Durante, come dire, sono la manifestazione di quella che oggi è l'Italia. Signora Durante, io la ringrazio per la sua chiacchierata, do appuntamento ai nostri radioascoltatori nei prossimi giorni, cercheremo la voce ufficiale della Regione Calabria. Dico grazie in regia a Pietro Lacorte, in studio a Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.